giorni c'è la fine, fra 3 giorni c'è la mondo, fine dello mondo. La terra fermerà il suo, la terra fermerà il suo giro tondo. I preti sono pieni, i preti di sono lavoro, pieni di lavoro. Pure se lo perdono, pure costa, se lo perdono caro, costa caro. I giudici saranno giudicati, le puttane tutti forse no, i preti, i dottori e gli avvocati. Lo santo Pietro li respingerà. Fra 3 giorni c'è la fine dello mondo. Fra 2 giorni c'è la fine dello mondo. Si rattrista e chi è giocondo, e chi è giocondo. Paradiso sogna, lo paradiso sogna, lo puttino. Lo contrappasso teme, l'assassino, l'assassino. E lo profeta grida e la sua voce con paura chi non l'ascoltò. E lo stolto ride a ogni parola, ma poi ogni parola capirà. Fra 2 giorni c'è la fine dello mondo. E da questo corpo disgraziato possa la mia anima andar su a cercare pace tra i beati che la soffre tanto già qui giù. E da questo corpo disgraziato possa la mia anima andar su a cercare pace tra i beati che la soffre tanto già qui giù. Fra 2 giorni c'è la fine dello mondo. Domani c'è la fine, domani c'è la mondo, fine dello mondo. E scoppieremo tutti, e scoppieremo in un tutti in un secondo. Domani lo Signore, domani incazzato, lo Signore incazzato, le nostre vite si riprenderà. Ma prima di scoppiare voglio fare tutto quanto quello che non si può. 100 donne voglio spulsellare, con l'eva mia di vino riempirò. Domani c'è la fine dello mondo. E da questo corpo disgraziato possa la mia anima andar su a cercare pace tra i beati che la soffre tanto già qui giù. E da questo corpo disgraziato possa la mia anima andar su cercare pace tra i beati che la soffre tanto già qui giù. La fine dello mondo, la fine non, dello arriva, mondo non arriva. Caronte si riposa, Caronte sulla, si riposa riva, sulla riva. 200 donne io spulsellato. E l'epa di Borgogna ho ricolmato. E lo giudice condannato, dica allo prete i peccati miei. La fine del mondo è arrivata, ma l'arriverà pure per voi. E da questo corpo disgraziato possa la mia anima andar su a cercare pace tra i beati che la soffre tanto già qui giù. E da questo corpo disgraziato possa la mia anima andar su a cercare pace tra i beati che la soffre tanto già qui giù. Oggi è finito l'omimondo.